Il mio lavoro è una passione. Mi piace la precisione, un cronografo. È un orologio speciale, mi dà grinta, un felino. È una macchina tale, deve essere precisa. Ormai le cose fatte bene io le sento orecchio. Un motore fatto bene è un rombo più che un suono. Ha uno scatto bruciante, ha una punto GT. È una macchina che mi dà sicurezza. ABS, airbag. Affrontare i tornanti è un piacere, a fiar punto la mia macchina. È come un meccanismo perfetto. È in più il punto. Ma perché filosofia non c'è le 6 del Vasco Rossi? Ma perché ragioneria non la spiega Umberto Tozzi? Ma perché la geografia non la ritma la bandoglia? E perché sto paradiso non... Il mio lavoro è una passione. Mi piace... Cisa. Ormai le cose fatte bene io le sento orecchio. Oh, sì. Ma che meraviglia, non l'abbiamo fatto apposta. I due file si sono sposati. Si sono sposati due file, a nostra insaputa. Davvero, ecco. La pubblicità dell'appunto, perché la puntata di oggi, ve lo ricordiamo, non è sulle menzogne pubblicitarie, perché l'appunto lo sappiamo tutti, non è una macchina scattante, non è una macchina sicura, e soprattutto il rombo, il motore non ce l'ha. Io ho un appunto, lo so. Vedi? E si è sposata questa pubblicità magicamente con i ragazzi della terza C, Se più facile. Che è la nostra nuova sigla. La nostra nuova sigla che ci accompagnerà per... Per almeno 4-5 puntate. Fino a Natale. Sì, forse anche fino a Capodanno, chissà. Poi ne ho subito pronta un'altra, ma tutto un gran sorpresume. Un genio, ragazzi, la Nelia. Sì. Queste puntate avevano bisogno di qualcosa di scolastico. Sì, perché ci siamo lasciate un po' andare. Ci siamo lasciate andare a, sì, come dire, a tutta questa... una carrellata di bestemmie e parolacce. Per quanto tutto giustificato, c'è qualcosa che la Nenia non torna col microfono. Sì, vabbè, lasciamo perdere. Oltre alla sputacchiera, sì. E quella vabbè, sappiate che in Radio Wombat abbiamo delle sputacchiere. Sì. Wow. Bene. E quindi il tema della puntata? Lo dica lei, dottoressa. Dico io. Orso. Punteggiatura generale. Zan. Li vogliamo male, sì, io sì. Allora, la sostanza è questa: non me la sentivo di andare avanti con queste puntate senza un gran sottofondo. Ah, oh. Benvenuti, grande festa di punteggiatura generale. Und pirra. Mo su, mo ballate, stasera, con queste virgole. Allora ragazzi, stasera la puntata la faccio tutta col mio accento nativo, senza dovermi, come dire, senza dovermi camouflage. Vergognare, senza camouflage. Perché questa è la polca. Su, avanti con queste parentesi. Come si chiama questa polca? La polca punto e virgola. La polca punto e virgola, ma davvero? Si chiama davvero la polca della punteggiatura, te lo giuro. Sarà mica perché... Mi sono andata a cercare la nozione prima perché... Google. Praticamente potrebbe esserci un'assonanza col fatto che la polca è sincopata nella musica. Ci sono, sta, insomma, c'è questa sincope che prende tutti i musicisti. Tutto un gran caso. Anche secondo me, perché questo è il liscio della Lorena. È bellissimo. È il mio personaggio preferito. Moshu punto, moshu virgola, ballate insieme. Allora, se vi dico una cosa... Una frase, ah, su questa bella polca che vi terrà compagnia e ci terrà compagnia fino alla fine della trasmissione, fino a che qualcuno non ci verrà a fare un TSO. Perché non so se è. Tra l'altro, sappi che adesso il TSO lo può fare, te lo possono fare anche se solamente i tuoi genitori hanno acconsentito. Quindi occhio, tieniteli buoni, eh. Eh sì, li ho già invitati a pranzo per Natale, più buoni di così. Vabbè. Ah, vado a mangiare, nonna. Vado a mangiare, nonna. Qual è la differenza? La seconda è, è un lupo travestito. Vado a mangiare, no. La mia preferita, che è stata imputata a Snoopy. Sono vivo e vegeto. Sono vivo e vegeto. Bellissimo. Che è anche un po', insomma, un controsenso. Però la dicotomia, super. Sono vivo o sono vegeto? Sì, mi piacciono queste coppie dove c'è, manca la virgola. Poi che... ne parleremo a lungo, ma voi non sapete. Ma abbiamo un sacco di relative, no, di tantissime frasi da propormi. Cioè, dovete avere presente uno scrigno pieno di pepite d'oro, che sono le nostre frasi minime che vi raccontare. Di pipponi d'oro. Non le pepite, il pippone d'oro. E... tutta questa... hai finito il sottofondo? Ah! Sciocchina! Che dici? Ogni volta che riparto poi mi serve un minuto e mezzo per riprendermi. E vai! Allora, su con la polca! Avanti con quel piedino! Signora, la vedo, che non balla in prima linea! Allora, in prima linea... una guerra, praticamente! Allora... ti sei scavata la trincea con trincea le quelle... mani. Noto che oggi abbiamo anche delle unghie molto chic. Domani una... oddio no, ho appena notato che mi si è sbavato un coso. Domani, ecco, è una riunione importante, allora. Chiaro. Quindi tutto questo che abbiamo, queste due frasettine che abbiamo detto della nonna e del vivo e vegeto, sono per me un'immagine abbastanza forte nella memoria della maestra Zelima, la mia maestra delle elementari, una pazza scatenata che veniva vestita da tirolese a scuola. Era di Ferrara, però. Perché è ancora viva, vegeta e lotta insieme a noi. Appunto. Ci faceva sempre leggere le poesie senza la punteggiatura. Erano meravigliose, delle risate incredibili già dalla terza elementare, per farci un po' capire, insomma, la valenza e quanto fosse importante questo elemento. E ovviamente il tutto non aveva un minimo di senso, neanche un briciolino. Che bello. Misteri della punteggiatura. Ci illumini. I grandi misteri. C'era anche quella del è per un punto Martin perse la cappa. Perché si trovò a scrivere sulla porta di un monastero una frase, insomma, questa frase risultava tutto l'opposto proprio perché mancava un punto, e allora l'hanno cacciato, ha perso la cappa. La cappa del saio. Del saio, sì. E quindi così era carina anche questa. Era una scritta in latino, non mi ricordo cosa recitava, però tipo la mancanza del punto... stravolgeva completamente il senso, non erano più i fedeli a essere soggetto di questa frase, perciò si incazzarono. Che meraviglia, tantissimo. La prossima volta che ovviamente andremo avanti con questo argomento, cerchiamo anche la falla. Tutte le falle delle varie. Esatto. Sì. Stavo per dire il fallo e quindi mi è venuto in mente che le puntate sono i doppi sensi e le parolacce, anche se non è una parolaccia, sono finite, quindi ho... Stavi per partire, ma sei bloccata, è giusto così. Quando è nata la punteggiatura? È nata tantissimo tempo fa, più o meno allora diciamo che la nascita vera e propria si può datare al XVII secolo, quindi 1600. Sì. Però il vero passaggio è stato... passare alla lettura ad alta voce, quindi già in un periodo monastico, diciamo dal 1400-1500 c'è stato l'inizio, il passaggio della lettura ad alta voce, anziché una lettura endofasica, quella tipo come quando ti dicono leggi con la testa, no? Quella silenziosa. Endofasica. Esatto, si chiama lettura endofasica e da lì con questo passo, perché prima si scriveva tutto attaccato, sì. Non c'era nessuna distanza fra una parola e l'altra. Sì, addirittura nei codex, comunque in tutti i documenti, diciamo, dei monasteri, quindi insomma tutto quello che riguardava Pergamena e Compagnia Bella, generalmente non solo non avevano la punteggiatura, ma addirittura avevano gli apici e i pedici, esatto, per le sì, annotazioni, le abbreviazioni, per cui sì, immaginatevi cosa significava per questi poveretti che io ammiro tuttora a distanza di 1000 anni per averci trasmesso tutto il patrimonio letterario più o meno pregiato, insomma. E pensate cosa significava per loro non proprio leggere, ma decodificare tutto quello che era stato scritto. Vi faremo una bella puntatina anche sul metodo ecdotico della lettura e di come questi testi letti male appunto poi portavano degli errori di trascrizione che sono arrivati fino ad oggi. Questa ce la siamo cercata. Sì, sì, sì, sì. Ma io, insomma, nel senso... Cioè, i nostri rivali qui in questa città devono solo temere su questa cosa. Ridatemi la tesi, ridatemi sì, la mia tesi, ridatemela. Ed è buffo perché proprio la nascita di questa lettura silenziosa permette, è vero, di capire di più, anche più velocemente tutto quello che si legge, però necessita di periodi per forza strutturati, perché sì, quello che puoi creare con la voce nella testa non lo puoi fare. E tutto questo ordine delle parti doveva essere riordinato in qualche modo per ristrutturare tutti i periodi del testo. Esatto. E quindi è stata inventata la punteggiatura semplicemente per dare quest'ordine che nel vocale già esisteva, nella lettura ad alta voce già esisteva, e invece nella lettura silenziosa no. Non guarda ancora. Che buffo. Bello, avete visto che belle storielle che vi raccontiamo. E soprattutto... lo voglio dire subito dall'inizio, siamo subito chiarissime, mettiamo subito la i manina. Puntini sulle Y, ecco. E sulle J. La punteggiatura non ha niente a che fare con la respirazione, bensì con la struttura morfosintattica e quindi la comprensione del testo. Oh. Lo dico adesso e non lo voglio più ripetere. Mi raccomando, ragazzi. La grande frasetta, mettete la virgola, bambini, che vi serve a respirare, vi prego, non si può sentire. Fa parte di un metodo un po' montessoriano, ma, forse, di insegnamento. Ma anche un po' più vecchiotto. Non esiste proprio, cioè non esiste. Viene, sapevo, utilizzato come metodo perché il bambino quando impara a leggere non ha ancora in realtà un senso pratico dell'applicazione della sintassi, o perlomeno non riconosce ancora in maniera definita gli elementi della frase, per cui per esempio dopo la congiunzione e non ci devo mettere la virgola perché già la e svolge una funzione particolare e quindi preso l'esempio più bislacco, no certo però effettivamente se le maestre, anche se anche quella è stata sdoganata un po' da io la uso sempre della e ci sono infatti delle differenziazioni. Quando, ma vedremo anche questo, è bello scrivere e virgola, non solo virgola, esatto, cioè proprio no, ti soffermi, bello, è vero, piace molto anche a me, no, più che altro mi sono persa un attimo con il volume, scusate. Stasera siamo... Avete visto come siamo tornate belle in forma? Sì. Sbrilucichiamo pure, sì, nessuno ci può vedere, ma c'è smalto, un grande capelli brillume. Coloratissimi, lucidi, una roba... forse erano le maledizioni che ci tiravano dall'alto dei cieli. Sì. Vabbè, via, niente, mi sono scordata, quindi ve lo dirò dopo. E a questo punto io vi farei ascoltare subito qualcosa, sì, che ne dite? Dai. Direi di no, perché il nostro problema si è rimanifestato nel computer impestato di malesseri, perché dopo la puntata delle bestemmie, secondo me qualcosa qui è crollato pesantemente. Sì. E quindi ecco. Ok. Ci siamo forse. Ci siamo. Forse, ma molto forse. No. Attenzione, se volete ve la canto io, tanto sono fresca. Ecco. No, ragazzi, non ci siamo proprio. Ok. Sì, ci siamo. Indiana Jones si divide tra lo studio appassionato e le straordinarie avventure che ci racconta nei suoi libri e nei suoi programmi televisivi. È venuto a trovarci Alberto Angela. Grazie. Grande Albertone! Allora, ciao Alberto. Penso che non mancheranno gli argomenti, perché tu sei un grande divulgatore, un grande chiacchierone, ma mi ha colpito, leggendo la tua biografia, scoprire che tu hai ricevuto addirittura un premio, hai vinto un premio Eloquenza, ma quando eri all'asilo. Ma di cosa parlavi all'asilo? Scoprite tutto, praticamente. Eh beh, certo, sai che no. Ero in Belgio, io sono nato a Parigi perché appunto mio papà era corrispondente, poi è stato spostato in Belgio e quindi io sono andato in un asilo belga. Io non so perché, ma effettivamente non lo smettevo mai di parlare. Ma in che lingua parlavi? In francese. Ah, in francese. Io ho imparato il francese, andavo in questo asilo. Evidentemente avevo voglia di divulgare o già raccontare a quell'epoca. Vabbè, poi hai continuato tutta la vita. Noi, tra l'altro, è un piacere sentirti, perché questi racconti sono sempre affascinanti e interessantissimi. È vero è che tu, parlando, poi gesticoli molto, devo dire. Non ce ne siamo accorti soltanto noi. A tutti. Ma devo dire che è un'abitudine un po' di tutti gli italiani. Sì. Quando si è all'estero, vai in un aeroporto, vedi che quelli che gesticolano, di solito sono mediterranei e sono italiani. E poi io, il fatto di muovere le mani, le braccia, eccetera, è per me una punteggiatura. È come un'accompagnatura, diciamo così, una colonna sonora. Un accompagnamento per quello che sto dicendo. Madonna, quindi, Albertone, ma cosa dici? Come è importante modulare la voce. Ti viene spontaneo, non è niente di artefatto, però aiuta molto. Vediamo questo filmato però di un amico adesso che vediamo. Se n'è accorto. Ma magari ragazzi. Anche no. Ma poi non è vero che gli italiani gesticolano all'aeroporto. Non siamo mica dei rincoglioniti. Cioè, no, vabbè, dai, ragazzi, questa immagine è orribile. Io gesticolare... Allora, domani io vado qua al Vespucci. Devo andare a Bologna, prendo l'aereo, vado al Vespucci, mi metto a gesticolare così per far contento Albertone. Oltretutto, cioè, andatevi a vedere le imitazioni fatte da Neri Marco Re. Wow, è veramente notevole, sì. Perché lui rende veramente bene la punteggiatura del corpo, di Albert, cioè il linguaggio del corpo, sì. Perché non è vero una punteggiatura. Infatti, no? Ecco. Brava. Le parentesi. Sì, lo farebbe proprio così. Madonnina. Quindi tutte le grandi fan di Alberto Angela devono sapere questa cosa. Sì. Lo sapete, vero, che è pieno di fan? Sì, donne. Avevo sentito. È considerato un... Cioè, avevo letto tantissime paginate di apprezzamenti. Mamma vabbè. Mia. Vabbè. Ci si accontenta di poco alle volte. Allora, prendiamo sempre anche come, diciamo, prova del 9, come elemento di raffronto il nostro amico web. Ecco. Nei forum, no? Che sono ormai dei ricettacoli di monnezza in certi casi. Di punti, generalmente a gruppi di 5. 5, 6, e ma 4, anche una riga. E punti esclamativi almeno 4, altrimenti sei nessuno. Esatto. Sei una schiappa. Io, anni fa lavoravo per... lavoravo per una fabbrica, diciamo, di sigari. Lavoravo in un'agenzia che ci occupavamo di questa cosa. I forum dei fumatori di sigari è pieno, ragazzi. C'è un mondo a parte, dovevo monitorarli, dovevo insomma dare un'occhiata a diverse cose sul linguaggio, quello che utilizzavano. C'erano posti interi con scritto fumando, quindi gerundio, e ve lo giuro, due righe di puntini di sospensione. La morte! Cioè, fumo, embolo, muoio. È chiaro, punto. Insomma, bello. Non solo sigari, nei forum si leggono anche definizioni un po' arbitrarie, ecco, di punteggiatura, no? Molto licenza poetica. C'è questo tale David, che io voglio citarvi, insomma, proprio papale quello che lui dice. La punteggiatura è l'unica non regola della grammatica. Svenuta. Capelli verdi. Nella letteratura e specie nella poesia poi trova nella sua arbitrarietà pelle verde, unghie che crescono. La spiegazione, infatti, per come ha utilizzato la punteggiatura in questo periodo si capisce tutto. Ah, capito. Dal mio punto di vista la punteggiatura ha lo stesso grande valore delle pause sullo spartito musicale. Ma cosa cazzo dici? E anzi ne rappresenta proprio quella affinità elettiva di espressione che la accomuna a tutte le arti. Ragazzi, sì, la pausa sullo spartito serve perché chi sta suonando l'oboe, se no gli viene un'embolia. E quella famosa confusione con la pausa del respiro, te l'ho detto che esatto. È diffusissima. Insomma, in pittura la punteggiatura è il chiaroscuro che interrompe e modula la rappresentazione visiva, ovviamente, no? Caravaggio, d'altronde. E tu ti droghi tantissimo. E nella scultura si invera nel vuoto e nel pieno e così in architettura. Ma vado avanti? Oh mamma. Perché, con l'accento grave, la punteggiatura deve necessariamente essere arbitraria, semplice, minuscola, dopo il punto interrogativo. Senza la scelta soggettiva di essa non vi sarebbe timbrica, coloritura, carattere, impronta caratteristica di quel poeta. Cari amici, sembrerà banale, ma nei punti e nelle virgole, cioè nelle pause, esiste un'eloquenza infinita e si potrebbe dire poeticamente, oddio, qua sta iniziando, che è nel silenzio delle pause che si esprime l'anima. Sposta una virgola all'Ave Verum di Mozart e crolla la melodia. Cosa? Cosa dici? Togli, mi sento cosa? Cruciani, quella merda di Cruciani mi sento in questo momento, scusate. Togli la mela rossa dal cesto con la frutta di Caravaggio e sposta l'uva nera sulla sinistra e distruggi un capolavoro. Ditemi un passero solitario se... Ah, giusto, aspetta. Prova a spostare questo... Aspetta, aspetta, dai. Perché questo è il pezzo importante. Aspetta. Vai. Un attimo solo. L'uccellino. C'è un serio problema. No, vai avanti allora. La leggo oppure... Sì. Ah, eccoci! Volevo arrivare a questo. Ah. Prova a spostare questo doppio errore grammaticale e perdi Leopardi. Tutta vestita a festa la gioventù del loco lascia le case e per le vie si spande, punto e virgola. E mira ed è mirata e in corsa allegra, passero solitario. Ditemi se questa non è melodia. Johnny è quasi magia. Ragazzi. Avete capito, insomma, cosa circola nel web? È webbatissimo anche questo, sì, effettivamente. Tutto questo per dire, insomma, come sosteneva la Neni all'inizio della puntata, non possiamo che darle ragione, che la punteggiatura non è legata alla respirazione, ma è legata al senso logico, strutturale, sintattico della frase. Oh. Senti, a questo punto mi addentrerei. Addentriamoci. Guarda. Come una mano nel profiterol. È tutto, è perché vi vogliamo bene, tutto per rendere molto più allora, io te più lo leggero, dico, più polka tutta la vita. Oh, facciamo un gruppo polka? Io non so suonare la fisarmonica, ma imparo in fretta a fare le cose. Torniamo alla nostra serietà. Se vuoi lasciarlo sottofondino. Oh. Non l'avevo mica levato. Addentriamoci, sì, dai, amici, dai. In questo bosco. Sono già alle 8, siamo in diretta su Ricordiamo tutto alla fine, sì, perché qua ce n'è da dire. C'è troppo, sì, infatti, va bene, dai, vai. Mo su avanti. Vai, allora, cosa serve alla punteggiatura? La punteggiatura regola l'articolazione del pensiero, ragazzi. Oddio, qua c'ho il microfono che mi fischia, scusate, mi faccio prendere dall'entusiasmo emiliano. Come si fa? Allora, la punteggiatura regola l'articolazione del pensiero. Ci può stare, no? Nel senso, ci può stare. Del pensiero, perlomeno, quando è in forma scritta. Eh sì. E sottolinea in modo visibile tutte le relazioni sintattiche, come ha detto la Nani all'inizio, il rapporto corretto, quindi, tra le componenti del discorso. Sono fatta prendere un po'. E organizza quindi il discorso in una gerarchia di logiche e di unità. Quindi di unità di maggiore importanza e di non minore, ma di importanza collegata, perché tutti gli elementi della frase sono importanti se vogliamo esprimere un concetto, anche nelle subordinate, nelle coordinate. Insomma, non possiamo esimerci dallo specificare, per cui. traduce poi la punteggiatura, traduce nella lingua scritta il parlato, la dinamica anzi del discorso parlato, ed è un elemento che accomuna ovviamente tutti gli scrittori. In particolare io ce n'è uno da consigliarvi che è una bomba, che è Julio Cortázar, che è uno scrittore molto sembrava la Marchesini quando faceva la merope generosa, è uno scrittore di origine argentina, bravissimo, meraviglioso. Leggetevi Tanto amore per Glenda, un libro stupendo. Ed è famoso perché utilizza la punteggiatura nella subordinazione. Lui fa subordinate su subordinate su subordinate, tutte quante collegate da una virgola e dalla congiunzione e. No, quindi sono coordinate, scusate. Usa le subordinate in un'altra maniera. È tutto questo difficilissimo per i traduttori. È una cosa impressionante perché la costruzione della frase, insomma, diventa un po' difficile, però riesce veramente a rendere un filo logico del pensiero in maniera meravigliosa. Leggetelo perché è fantastico. Ecco. Quindi si parlava di logica, si parlava di verosimiglianza dei dialoghi, si parlava di relazioni sintattiche, corretti rapporti, delle componenti del discorso, e possiamo dire che le discussioni che abbiamo fatto sulla punteggiatura dalla fine del 1900, 1800, fino ad oggi, vertono su un'opportunità, che è quella di, ormai è sempre più, diciamo, di tendenza questa cosa, l'essere un po' parsimoniosi con l'utilizzo dei segni nella frase, tanto è vero che... Fare economia. Fare... Please. È una cosa che io non sopporto personalmente. Abbiamo. Cioè, già c'è un. È cascato il tuo microfono. È un sabotaggio. Sabotage. C'è un sabotage per la nostra povera Nina, che ha perso il controllo del suo microfono. Grande. Di nuovo rispiaccica. Abbiamo un problema con il. Abbiamo un problema in generale con tutto. Abbiamo un problema con il Canon. Io dovrò fare la trasmissione così. Attenzione. Sì. Ok, ecco. Chi è stato a mandarmi una maledizione tra di voi che odia usare, per esempio, il punte virgola? Vi conosco, vi vedo. Sì, il punte virgola, poverino, è il più bistrattato. Ormai è quasi scomparso. Che invece è una cosa utile. Sì. Tra l'altro, poi li vedremo uno per uno nelle prossime puntate. Una carrellata veloce ora. Ma quando fate gli elenchi puntati delle cose, il punto e virgola serve perché alla fine dell'elenco puntato della frase che state puntando nell'elenco ci va il punto e virgola per chiuderla. Avete voglia di dire che non serve? Questa te la sei cercata. Volete allora vedere le mie liste della spesa? Sono pazza, lo so. Vabbè, quindi voleva sì, qua ci sì, doveva, la giornata del problema. Doveva partire lo sketch. No, non parte niente perché è tutto bloccato. Quindi, insomma, parsimonia sulla punteggiatura. Forse ce la facciamo. Ma anche no. È tutta una giornata un po' così, perché dopo le bestemmie si sa, arrivano i malanni. E infatti, ne state vedendo la prova in diretta. Sì. Comunque, ti devo dire una cosa. Oddio, che mi devi dire? Ho visto un punto sulla lingua. O che ti piace l'italiano? A me piace le virgole. Il punto. E io da un periodo. Mi chiamo Virgola. Sono un gattino. E riparte, evviva! Abbiamo ucciso virgola, ma ovviamente non la punteggiatura, ma insomma, non il segno di interpunzione, perché non l'abbiamo ancora detto in tutto questo marasma. Che l'interpunzione è il sinonimo di punteggiatura. Oh, regà. Che dire, sì, c'è l'uso stilistico della punteggiatura che, come dire, è legato appunto a una questione logica che secondo alcuni linguisti, scrittori, chiunque quasi, diciamo che questa punteggiatura utilizzata in questa maniera riscontra degli ostacoli abbastanza insormontabili. E, contro la tendenza a un contemperamento tra la punteggiatura logica, quindi quella che utilizziamo normalmente, che ci viene insegnata a scuola non riferendoci alle pause ma legata alla sintassi della frase, e quella invece più stilistica, Dovidio, che è un linguista, obiettava che ci sarebbero state poi diverse incertezze, perplessità per ovviamente tutti gli scrittori. E come esempio poi invece di interpunzione perfetta, diversi trattatisti, parliamo anche di critici letterari, diversi trattatisti propongono ancora oggi alcuni passi di Carducci, ragazzi, che propendeva sempre per una punteggiatura piuttosto misurata. C'è anche chi la punteggiatura non la usava minimamente e andiamo avanti di pochi anni, come poteva essere per esempio Ungaretti, la poesia l'ha utilizzata, la punteggiatura l'ha utilizzata pochissimo. Uno che la utilizzava molto invece era Montale. Mossi di Seppia è, diciamo, è un fondamento anche dell'uso della punteggiatura. La poesia alla moglie, sceso dandoti il braccio, insomma, la virgola è un passo fondamentale lì. Quindi insomma, diciamo che i moderni tendono a ragionare diradando i segni di interpunzione e purtroppo sono anche capaci di abolirli del tutto per eccesso di raffinatezza o addirittura, come dice Francesco Flora, per manifesta ignoranza. Ecco. E questo in realtà è, diciamo, una tendenza che stiamo seguendo da un periodo ben particolare, che è l'inizio della prosa ottocentesca. Quindi poesia a parte, la prosa dall'Ottocento ha subito un po' una mutilazione dal punto di vista della punteggiatura. Ma che dire, un pezzettino dopo questa polca? Sì, vi farò ascoltare qualcosa di meno musicale ma altrettanto divertente. Ah, ecco. Ovviamente il nostro mixerino ci mette un po' a partire. Giovanotti, carte, calma e pizza. Dai, su. Allora, ci via. Hai scritto? Un momento, no? E comincia, su. Carta, calamari e pizza. Oh. Ragazzi. Signorina? Signorina? Dove sta? Chi è? La signorina. Quale signorina? Hai detto signorina? È andata la signorina. E che dice? Signor... Avanti! Animale, signorina! È l'intestazione autonoma della lettera. Oh. Signorina, non era buona quella signorina. Meglio. Signorina, veniamo noi con questa mia a dirvi. Veniamo noi con questa mia a dirvi. A dirvi una parola. A dirvi. A dirvi una parola. Che? Che? Che? Che? Che? Uno, quanto? Che? Uno che? Uno che? Ah. Che? Che? Scusate se sono poche. Che? Che? Scusate se sono poche. Ma 700.000 lire, punto e virgola, noi ci fanno specie che quest'anno, una parola, quest'anno c'è stato una grande moria delle vacche. Una grande. Come voi ben sapete. Voi. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantis ad abbondandum. Questa moneta servono questa moneta servono... Questa moneta servono a che voi vi consolate... Oh, scrivi presto. Con insalate. Che voi vi consolate... Avevo capito, voi con l'insalata. Voi vi consolate, non mi fa perdere il filo, che ce l'ho tutta qui. Avevo capito, con l'insalata. Dai dispiacere... Dai dispiacere che avreta, che avretta, che avretta, eh già, è femminile, femminile, che avretta perché? Che? Perché? Non so. Che non so? Perché che cosa? Perché chi? Perché qua? Perché? Ah, perché qua? Dai dispiacere che avete perché? Perché qua? È aggettivo qualificativo, no? Beh, io scrivo. Perché... Dovete lasciare nostro nipote, che gli zii, che siamo noi medesimo di persona. Ma che stai facendo una faticata, se asciughi su tui? Che siamo noi medesimo di persona, vi mandano questo. Questo. Perché il giovanotto... È studente che studia, che si deve prendere una laurea. Laura. Laura, che la... deve tenere la testa al solito posto, cioè... Cioè? Sul collo. Sul... Punto, punto e virgola. Punto. Punto e un punto e virgola. Troppa roba. Salutà, lascia fare, che dica che noi siamo provinciali, siamo tirati. Salutandovi indistintamente... Salutandovi indistintamente, sbrigati, salutandovi indistintamente, i fratelli Caponi, che siamo noi. Questa apri una parente. Apri una parente, dici, che siamo noi, i fratelli Caponi. Caponi. Hai aperto la parente? Chiudila. Ecco fatto. Vuoi aggiungere qualcosa? Ma io sì... Bene. Vale. Senza nulla a pretendere non c'è bisogno. In data odierna. Va bene, poi si capisce. Va bene, si capisce. Piega i lembi. Avanti. Svelto. Ecco fatto. Chiudi. Andiamo. Ecco fatto. Lucia, noi andiamo. Noi usciamo. State attento, Apri. Ed eccoci. Il classico. Che belli. Prendere una laurea. Parente. Chiusa parente. Bellissimo. Allora, sono le 20 e 16. Sì. Saluto tutti quelli che ci stiamo ascoltando. Sì. Grazie per essere sempre così numerosi. Bellini. Ci volete proprio un gran bene allora. Sì. Che facciamo? Facciamo una carrellata? Sì, dai. Veloci. Vai. Ma si è sentito quello che ho detto? Sì, è stato solo un attimo di tremor. Un attimo di cannon del microfono che si stacca, sì. Ok. Punteggiatura. Ah, una un'ultima cosa veloce. Facendo una sintesi, no, di tutto quello che si è detto finora... Si può dire che si adotta la punteggiatura con una funzione logico-sintattica quando si desidera ottenere la maggiore chiarezza possibile in un testo. Okay? Stiamo parlando ovviamente dei testi scritti e dell'applicazione della punteggiatura. Oppure quando un testo scritto è diretto a una moltitudine di lettori, non tutti pronti o capaci di coglierne le sfumature. Può essere un testo giuridico, può essere un testo di qualsiasi tipo. Se noi non abbiamo una formazione particolare... La punteggiatura ci può aiutare a capire le gerarchie all'interno della frase e i concetti più importanti. E una punteggiatura invece finalizzata, un effetto solamente espressivo, è più adatta a chi, conoscendone bene le regole, bene alla perfezione, vuole adattarla ai propri intenti artistici, quindi per un uso creativo. Però, ragazzi, la licenza poetica lasciamola a chi la può usare. Manco Baricco lo può fare, perché Baricco fa cacare. No, che bello. Cacare. Dai, finalmente. Io ho sempre grandi difficoltà a dirlo, Baricco, perché vengo sempre trattata malissimo. No, ma ragazzi, ma Tokyo Blues, no, scusate, Seta è uno dei romanzi più pallosi della storia. Ma è bellissima questa, mi hai dato, guarda, non abbiamo mai avuto modo di parlare. Di parlare di Baricco, poi si va bere una birra e parliamo, andiamo a infamare Baricco. Sì. Oh, io mi ricordo l'ultimo romanzo che ho letto, non mi viene più in mente il titolo, è quello dello scrittore che abita nel loft, no, nell'open space. No, ma io space. Non ci sono nemmeno arrivata. No, no, no, no, assolutamente. Guardate ragazzi, guarda, meglio leggere Capossela a sto punto. Ma non lo so, io ho visto, detto vabbè, forse non riesco a entrare io nel suo mondo, sarò una povera disgraziata, ignorante caprona. Che sicuramente sono comunque, a prescindere, però, insomma, un po' di consolazione nel fatto che non piace anche a qualcun altro. No, no, proprio mi è repellente. Lui è la Santa sì? Croce. Vabbè, ma quella manco. Vabbè, quella ci sta. Faremo una puntata comunque di infamate sugli scrittori. No, no, infamate non me la sento, però ecco, poterlo dire a voce un po' più non, alta. Non lo amo minimamente. Bello, è una grande liberazione. Però mi piace Ammaniti, scusate. Sì, vabbè, meglio, sì, più fresco, più frivolo, più scoppiettante. In 5 giorni leggi un libro e ti sei sì, fatto vero, comunque un bel... Sì, sì, fine settimana a lungo lo passo. Un bel viaggettino, così. Una storia carina. Sì, poi la prossima volta ti dirò chi altro non mi piace, che però cioè, posso fare le confessioni tipo una al giorno, non di più. Non di più, esatto. Una settimana. No, il prete poi... Figliuola, sì. Figliuola. La prossima settimana ti tirerò fuori un altro nome. Lì, non ridirai veramente perché... Me lo dici dopo? No, te lo dico giovedì prossimo. Quindi... Cara. Cava. E se non stai zitta, rimetto la polca. Vai, no, non so. Tanto me la metti lo stesso. Pensavi la mettessi davvero. No, no, io la voglio ancora. No, adesso ci vuole perché dobbiamo fare la carrellata. Ma quando mai ora continuo a metterti la polca? Dai. Voilà. Eccoci con la carrellata dei segni di interpunzione. Abbiamo la virgola, il punto virgola, i due punti, il punto interrogativo, il punto esclamativo. Signora, signora, i puntini di sospensione, le virgolette, la lineetta, il trattino, l'asterisco, oddio, le parentesi tonde, le parentesi quadre e la sbarretta. Potremmo fare la ruota, quella delle sagre dove si vince il prosciutto. È vero. Con la punteggiatura. Signora, signora, cosa ci manca qua? Dai, lo facciamo. Giù, queste virgolette. E questa è soltanto una parte. Cioè, virgola, punti, virgola, due punti, punto, punto interrogativo, esclamativo, puntini di sospensione sono i segni di interpunzione più utilizzati. Quelli più conosciuti. Sì, perché poi abbiamo anche un'altra... Un altro baule di segreti. Il punto mediano, lo spazio, che nessuno considera è come vero, punteggiatura, è poverino. Vero. Invece... E abbiamo visto, infatti, che proprio la nascita della punteggiatura vede proprio come primo inserimento nello scritto lo spazio. Ragazzi, perché la parola è un'invenzione umana. E quindi tutti i segni arbitrari o non arbitrari che utilizza per articolare, sono sempre invenzione umana. È così. Quindi. Il trattino d'unione l'abbiamo detto. Le trait d'union. Bellino. È bellino e teoricamente andrebbe utilizzato in tutte le parole, diciamo nei composti formati da due parole. La lineetta ondulata, quella che non sai mai fare quando devi digitare qualcosa nel terminale. Cosa ci manca? Vabbè, le parentesi tutte. Quelle, graffa, quadra, maggiore, uncinata. Minore compresi. Virgola, virgolette. Ah sì, belline. Il primo che fa virgolette con le dita tra di voi, gliele trancio con le cesoie. Cesoie e via. Allora, parliamo un attimo della famiglia dei punti per introdurre un po' anche la prossima puntata, sì. Visto che non possiamo farvi la carrellata di tutto, se no ci abbandonate. Allora, abbasso i volumi della mia polca. Polca miseria. Polca miseria. Polca miseria. Questa proprio... Ma la potevo risparmiare, lo so. Non c'è bisogno di dirlo. Ma il punto, secondo voi, a cosa serve? Serve soltanto come, diciamo, chiusura del periodo, quindi stop totale? E al sì, sì, nel senso, al punto corrisponde la pausa più lunga esistente in tutto il mondo della punteggiatura. Pare solamente al punto interrogativo ed esclamativo. Perché? Perché sono della stessa famiglia. È vero. Oppure il punto. A chiudere una letterina che fa di una parola un'abbreviazione. Aha, tipo professoressa, prof. Prof. Ingegnere ing. Oppure anche per creare gli acronimi. Ecco. Che in realtà non, per esempio, non un acronimo come nome di azienda così o di tipo l'ASL non viene utilizzato. No. Però in realtà anche per scrivere Stati Uniti d'America, quindi USA, andrebbe utilizzato il punto alla fine di ogni, diciamo, parola, lettera iniziale che sta a simboleggiare l'intera parola. Scusa, hai detto USA, devo... USA! USA! Come farebbe Homer. Ma come corrono queste dita sulla tastiera della fisarmonica? Davvero. Che geni, ragazzi. Solo oggi, da oggi è polka core. Sì, sì, sì, sì. Tutta la vita. Linguistica è una polka. E polka core. Oh, vai. Punto esclamativo, noto in passato anche come punto ammirativo. Ah, guarda. È uno dei segni di interpunzione adoperati nella scrittura che stanno appunto a indicare sorpresa, sensazioni forti, grida, attenzione. E tale forma di rappresentazione grafica, ovviamente, è nata nel Medioevo, più o meno in contemporanea con il punto interrogativo, ragazzi, che ha una storia meravigliosa. Meravigliosa. È strano, no, il punto interrogativo come viene utilizzato, come è stato graficamente espresso. Qua è partita una breakdance sulla polca. Infatti, in copisti medievali, per io indicare... Io faccio la polka dance. Polka core with polka dance. No, ma sentite questa storiella bellissima, poi vi abbandoniamo perché è tardi. O ve la diciamo la prossima volta? No, li lasciamo così. No. No, non si fa. È veramente maleducazione. I copisti medievali, infatti, per indicare cosa facevano? Cosa facevano? Ballavano la polca. Mi dispiace, non ve lo dico. Ve lo dico la settimana prossima. Ule. E non andate a sbirciare nei vari Wikipedia, librini, ecco. Così, perché sennò vi rovinate la sorpresa. Vi dico soltanto che io... per i copisti del Medioevo non significava io, quindi pronome personale, ma era un'esclamazione di Gaudio. E da qui nascono tante cose. Ecco. Capito? E finiscono anche tante altre, come per esempio questa puntata della Brusca! Brusca! Forza, forza! Su con quel ritmo! Che Capodanno si avvicina! No, sono le 20:26, ragazzi. Allora, intanto vi rimando al manuale di base della punteggiatura, quello che tipo non potete andare avanti ad ascoltare le puntate della Brusca senza aver preso in mano questo libro e averlo almeno letto una volta. Simone Fornara, la punteggiatura della Carocci Editore. Abbiamo perso un altro libro, l'abbiamo perso, scritto dalla Francesca Serafini, edizioni La Terza, questo è il punto, istruzioni per l'uso della punteggiatura, chi l'ha visto lo porti alla cassa della pesca. Lo sapevo che sarebbe stata una rovina questa polca. No, ma io ve lo devo dire. Poi vi lasciamo andare perché è tardissimo, sì, tutto quanto. Sì, ma sì, lo sapete sì. Che la mamma della mia migliore amica delle elementari lavorava come cantante in un gruppo di Lission. Che bello! La mamma e il papà avevano che un gruppo di Lission. Dalle tue parti c'era un'altissima percentuale. C'era la guerra. C'era la guerra tra le band. Non sto scherzando, tre gruppi di Lission. Ma wow. Si tagliavano davvero i copertoni ai pullman, perché andavano poi via, sì, insomma, con questi pulmini. Geniale. Sì, sì, una roba. Il racket del Lission. Sì. Il racket del Lission. E allora loro cantavano una canzone che non ho ancora capito qual è, che diceva She's Galet. Ok. Capito perché. Sto qui, ho studiato linguistica, ragazzi. Vabbè. È bello. A questo punto chiuderei i battenti. Baracca e burattini. Mettere un pezzo cafonissimo, visto che tanto. Ci siamo, dai, tanto ormai non è che possiamo più salvarci la faccia. La chiudiamo così in bellezza stasera. Sì, la chiudiamo in bellezza e rimandiamo i buoni propositi alla prossima settimana. E anche l'agenda. Giusto, l'agenda. Facciamo ci sono un sacco di cose interessanti. Polveriera, Next Emerson, ragazzi. Il corteo per no inceneritore, eccetera, eccetera. Andate a spippolare un po' su internet e troverete un sacco di cose. Diciamo soltanto una cosa velocissimissimissimissima, che domani sera c'è una cosa molto molto bella al Next Emerson, dalle 21 in poi. Presentazione di Scarcerando 2018, Atelier MTK da Grenoble, Francia, e i 70 FPS che fanno una bellissima performance di cinema reinventato e artigianato in pellicola, colorano in diretta, tagliano, bruciano. Wow. Ragazzi, esserci, perché al Next Emerson in via di Bellagio, mi ricordo mai, e a mezzanotte il live dei Gargamella, che se siete di Firenze conoscete, avrete sentito... Chi non li conosce, una schiappa. Esatto. E poi dopo, sabato, corteo non inceneritore no aereo, diretta a Wombat. Polveriera, dalle 17.30 alle 23.30, dibattito su immigrazione, profughi, lotta per la casa, con il movimento di lotta per la casa, apericena e gli Etrurians live. Domenica, sempre in polveriera, si fanno veramente il mazza la polveriera, ragazzi. Sunday, vinyl session number 2 più aperitivo, dalle 18 alle 22.30. Perché non hai detto che anche oggi in polveriera c'era qualcosa. Ah già, anzi, perché ci io... sarà in questo momento in realtà, quindi se siete nei paraggi sì, centro, 18.30, andate. Nuovo laboratorio teatrale, la presentazione. Ogni giovedì, in realtà, dalle 18.30, il laboratorio teatrale. Per cui stasera la presentazione... E da giovedì prossimo le sessioni, le lezioni, insomma, il laboratorio. Bravi sti guaglioni. Uaiù. Bene. Ah, scusate. Oh. Benefit. Serata dalle 21.30 alle 20.30, brava. La Critical Mass. Grandi. Sempre in polveriera. Che bello, mitici. Bene, allora ciao. Bacio. Ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima. Esatto. Ciao. Si avvicina il mio compleanno, ciao, fatemi i regali. Oh, sì. Abbandonato dal suo padrone. Oh, poverino. Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto anche se inverno e fa freddo di certo. Quando è l'ora di andare in vacanza e le automobili sono in partenza, non c'è più posto per il cagnolino, così lo chiudono sul terrazzino. Passa di lì un maresciallo pompiere, con le sue scale raggiunge il terrazzo, mentre il buon Virgola sembra già pazzo.